Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Un benvenuto da Maurizio Melis. Il primo provvedimento di risparmio energetico nell'edilizia, direbbe qualcuno, dovrebbe riguardare l'enormità di carta che bisogna produrre per il più piccolo intervento esterno. Parliamo delle scartoffie, evidentemente, che abbondano. Tuttavia, per chi sceglie l'efficienza energetica ci sono alcuni vantaggi. È quanto cercheremo di mettere in luce stasera, tenendo presente che a volte sono gli stessi uffici tecnici dei comuni o comunque degli enti locali a non conoscere questa sorta di normativa speciale che è stata prevista per incentivare l'edilizia a risparmio energetico. È un caso frequente questo, soprattutto nei comuni in cui ci sono poche esperienze al riguardo. Per cercare di decifrare il tutto, il nostro aiuto c'è Pietro Guarisco, che è associato di ARUP, responsabile per la parte impianti ed energia. ARUP è una grande società di ingegneria, una multinazionale praticamente, che opera a 360 gradi nel settore edilizio e delle infrastrutture, collaborando tra gli altri con alcuni dei più noti architetti del mondo. Ebbene, buonasera Guarisco e benvenuto a Mr. Kilowatt. Buonasera a tutti voi, grazie per essere qua. Allora Guarisco, prima cosa che dobbiamo dire, anche se è forse un po' ovvia, i regolamenti edilizi sono emanati da vari livelli dell'amministrazione pubblica, quindi la situazione comunque è molto variabile. Quello che possiamo fare è una carrellata, diciamo, sulle tipologie di incentivo che esistono, e visto che almeno per ora, insomma, un livello nazionale ancora c'è, Guarisco, che cosa possiamo dire a riguardo? Ma dunque, diciamo che come hai detto tu, il panorama è veramente vasto e complesso. Volendo sintetizzare quello che potrebbe essere un approccio di analisi sulla larga scala, diciamo che le possibilità che ci sono e sono le più interessanti in termini di bonus edificatori e non, riguardano la possibilità anzitutto di ampliamento volumetrico legato all'aumento di volumetria della coibentazione esterna, giusto per essere chiari. Quindi parliamo di una ristrutturazione, per esempio, in questo caso. Esatto, parliamo di ristrutturazione. Questo porta anche a una possibilità di riduzione delle distanze minime fra gli edifici, perché ovviamente questo comporta quindi la possibilità di deroga anche in questi termini, e addirittura riusciamo ad arrivare anche alla richiesta di DIA, para permesso di costruire, per la realizzazione di questi interventi migliorativi, che quindi semplifica di molto l'iter burocratico di questa. Quindi questa è sufficiente la DIA o non serve neanche quella? Normalmente è richiesta, ma con un minimo di impegno. Qualche volta si riesce anche a derogare, ma poi c'è un albero abbastanza complesso in cui andrebbe analizzata la singola casistica. D'accordo, diventa complesso, d'accordo. Sì. Ovviamente questa efficienza migliore, migliore efficienza dal punto di vista del consumo energetico, porta anche a una riduzione degli oneri di urbanizzazione, perché riusciamo anche a spuntare interessanti, diciamo, scontistiche in questo campo. Per esempio, volendo citare un esempio più vicino a noi, non è da molto tempo che a Milano abbiamo la possibilità di avere dei forti sconti in termini di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria legati a un miglioramento delle performance dell'efficienza energetica globale del nostro edificio bar impianto. Quindi proprio proporzionali, per così dire, si è migliorata l'efficienza energetica. Esatto, c'è una formula che spiega anche in maniera calcolarla, però più che proporzionalmente c'è una riduzione interessante degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, quindi questo sicuramente. Ecco, invece a livello regionale, a parte il Trentino Alto Adige che è praticamente su Marte, la Lombardia è una delle regioni più attente. Che approccio appunto è stato scelto dalla Lombardia e anche da altre regioni? Sì, diciamo che il filone grosso modo è quasi sempre questo. C'è la possibilità di avere uno sconto degli oneri di urbanizzazione che poi di volta in volta il singolo comune legifera o dovrà legiferare, e poi c'è anche la possibilità di avere degli scomputi delle volumetrie. Questo è, diciamo, il must che si sta seguendo un po' a livello nazionale e soprattutto anche in regione Lombardia, per cui c'è la possibilità di poter, tra virgolette, costruire di più a parità di volumetria se si rispettano certi canoni, ad esempio il miglioramento del 10% delle performance legate al decreto 192 del 2005. Ecco, quindi diciamo che l'orientamento generale è quello di concedere un aumento di volumetria a fronte di una certa efficienza energetica. Assolutamente. Ecco, voi cosa ne pensate? Nel senso che indubbiamente è attraente come prospettiva. Secondo voi si porta dietro qualche problema? Per esempio i sopraelevamenti, l'aggiunta di un piano in alcune situazioni, abbiamo visto cosa è successo in Abruzzo, ecco, per esempio in zona sismica non sono una roba tanto saggia. No, questo è vero. Infatti, dal nostro punto di vista, bisognerebbe cercare di capire qual è l'approccio migliore a dare al singolo problema, perché non è vero che la soluzione base valga per tutti. ci vorrebbe un'analisi di retroefficienza energetico per ogni singola casistica e quindi capire qual è la soluzione migliore adattabile a singolo caso. Diciamo che di norma però l'adozione del cappotto e il miglioramento delle performance dell'impianto riescono già ad attivare un interessante... Certo, già qua comunque ci sono dei benefici perché non bisogna rispettare tutta una serie di scartoffie. Esatto. Tipicamente a quali difficoltà vi trovate di fronte? Cioè trovate degli enti locali che effettivamente rispondono a questa normativa? O? Ma per essere onesti, proprio pochi mesi fa siamo usciti da una tragica esperienza nell'intero milanese in cui per altro eravamo noi a spiegare ai tecnici comunali che cosa avrebbero dovuto fare loro per concedere o per ottenere questi bonus volumetrici o questi sconti degli oneri. Quindi abbiamo sentito sulla nostra pelle questo ritardo di presa in carico di queste nuove normative, queste nuove direttive in ambito locale. Credo che sia un transitorio, ma insomma... Diciamo che è probabilmente un'operazione di forte comunicazione interna dentro nelle istituzioni locali sarebbe indispensabile. Ed è anche importante arrivare lì invece preparati, proprio perché non sempre si trova dall'altra parte una conoscenza, ecco. Beh, grazie Guarisco. Ci mancherebbe, grazie a voi. Bene, prima di lasciarci una segnalazione, anche le serre bioclimatiche esposte a sud, altrimenti non hanno questa qualifica, non fanno volumetria e queste possono dare invece un contributo significativo a edifici esistenti in termini di superficie abitabile. Questo è davvero tutto, l'appuntamento è per domani, parleremo di energia verde, cercheremo cioè di capire come riconoscere un operatore che produce la propria energia elettrica appunto da fonti rinnovabili. Buona serata.